L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, la scelta delle sette notizie più importanti è già stata fatta. Con queste vi racconteremo l'ultima settimana, cominciata sabato scorso 29 novembre e finita ieri. Come sempre riascolteremo i servizi, le interviste e i commenti andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. Apriamo con la politica, perché sabato scorso si verificano due fatti molto importanti. Uno tiene banco per diversi giorni, ci sono accuse, controaccuse, ci sono spot in televisione, probabilmente avete già capito di cosa sto parlando, tra poco ci arriveremo. Ma c'è un altro episodio, purtroppo tragico, drammatico, da cui partiamo. L'episodio ci riporta a Napoli, riascoltiamo Enzo Danna. Era accusato di avere contribuito all'organizzazione delle proteste contro la discarica, degenerate in diversi episodi di violenza. Venerdì sera era tornato nella sua casa dopo che i magistrati avevano ridotto a 4 giorni il divieto di dimora a Pianura. È lì che Giorgio Nugnes, ex assessore alla protezione civile e al sottosuolo del comune di Napoli, si è tolto la vita impiccandosi ad una inferriata. Sconcerto è stato espresso dal procuratore della Repubblica Gian Domenico Lepore, il quale ha affermato di non credere che il motivo scatenante del gesto sia l'inchiesta sulla vicenda di Pianura. Da alcune intercettazioni telefoniche è emerso che Nugnes, nei giorni caldi della protesta, avrebbe più volte avvertito il consigliere di AN Nonno, anch'egli arrestato, degli spostamenti delle forze dell'ordine. Lo scorso 28 ottobre all'ex assessore del PD e agli altri 40 indagati nell'inchiesta era stato notificato un avviso di conclusione indagini, un atto che con ogni probabilità avrebbe portato ad una richiesta di rinvio a giudizio. Oltre al dramma irreparabile della morte di Giorgio Nugnes, c'è l'inchiesta della procura che procede spedita e dalla quale emergono intercettazioni scomode, ci sono anche coinvolgimenti imbarazzanti della giunta comunale di Napoli. Questo si lega anche al tema scoppiato in questi giorni all'interno del Partito Democratico della cosiddetta questione morale. Ci sono episodi gravi con personaggi di spicco della Campania, della Toscana, dell'Abruzzo che sono coinvolti in indagini, tutti esponenti della sinistra. Il tema più rovente, però, e più gettonato sui giornali e televisioni in questi giorni è un altro, ed è quello dell'aumento dell'IVA dal 10 al 20% per Sky. È una delle misure del pacchetto anticrisi varato venerdì scorso dal governo, ma il provvedimento in questione emerge soltanto nella giornata di sabato e così scoppia la polemica. Berlusconi, il governo e la maggioranza difendono naturalmente la scelta che toglie, secondo il loro giudizio, un privilegio che esiste dal 95, mentre il PD parla di conflitto di interessi, il tema antichissimo che lega Berlusconi alla sua discesa in campo in politica, in quanto appunto il provvedimento favorirebbe Mediaset. Sky va al contrattacco con le armi che peraltro Berlusconi conosce benissimo, quelle dei servizi e degli spot in televisione. Valentina Furlanetto. Questo aumento delle tasse sul vostro abbonamento Sky entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio. Se credete che questa decisione sia sbagliata, scrivete una mail a segreteria.presidente@governo.it. Sky passa al contrattacco e lo fa con uno spot. La TV di Murdoch risponde così alla decisione dell'esecutivo di eliminare le agevolazioni per le pay TV, innalzando l'IVA al 20%. Se gli abbonati non sono d'accordo, dicono a Sky, non resta che mandare una mail al governo. La polemica si è trasferita anche sul terreno della politica. Il capogruppo del PDL al Senato, Maurizio Gasparri. La sinistra non trova di meglio che aprire una polemica sulle televisioni a pagamento, che riguardano una fascia di italiani che ha più soldi in tasca. Walter Veltroni, segretario del PD. Non stiamo parlando di famiglie ricche, stiamo parlando dei tifosi delle squadre di calcio, per capirsi. Il decreto alza l'IVA solo per gli abbonati delle pay TV, non fa altrettanto per gli abbonati delle pay per view. La questione monta, come si dice in questi casi. Forse la maggioranza e neanche Berlusconi si aspettavano tanta eco e anche qualche punto perso nei sondaggi. Tuttavia, martedì il governo fa capire che sull'aumento dell'IVA a Sky va avanti. Vincenzo Miglietta. Il governo blinda di fatto il provvedimento che raddoppia l'IVA sulle pay TV. Dopo un'iniziale apertura, lo stesso Berlusconi, in visita ufficiale in Albania, spiega: tornare indietro, ma nemmeno per sogno, e dove troveremmo, dice il premier, i soldi per fare tutto ciò che abbiamo fatto. Tremonti ha rimediato a un privilegio in debito nei confronti di Sky. Poi l'attacco all'opposizione. La sinistra si è palesata per quello che è. Sono in conflitto di interessi, c'ho tutta la convenienza. E insistano, no? riduciamola per tutti, l'IVA al 50%. Ma dai, ma questa qui è gente con cui si può parlare, ma che si vergognino, dai. Un attacco, quello del Premier, che una volta rientrato a Roma indirizza anche contro i direttori di alcuni quotidiani come La Stampa e Il Corriere della Sera. Direttori e politici, dice Berlusconi, dovrebbero tutti cambiare mestiere, andarsene a casa. Di nuovo editto bulgaro, parla l'opposizione, così Bersani, PD. Siamo un paese nel quale un Presidente del Consiglio può tassare le sue imprese, quelle dei concorrenti, secondo criteri, alla fine criteri suoi. Il governo ancora una volta trucca le carte, aggiunge Di Pietro. E mercoledì interviene anche un altro protagonista tirato in ballo di continuo in questa storia, sia da destra che da sinistra, cioè l'Unione Europea. Sentiamo Sergio Nava. Il caso è chiuso. È una pietra tombale quella che Bruxelles ha posto ieri sulla vicenda dell'IVA a Sky, al centro per giorni del dibattito politico. Il perché lo spiega a Radio 24 la portavoce della Commissione Europea, Maria Assimacopoulou. The member states, they are obliged. Secondo cui Bruxelles ha fatto presente al governo italiano la probabile incompatibilità di due tassazioni distinte nel settore delle TV a pagamento. Una al 10% per Sky e l'altra al 20% per Rai e Mediaset. Per la Assimacopoulou nessuno vieta di applicare aliquote ridotte, ma o le si abbassa a tutti o le si parifica a livello standard. La Commissione ha successivamente smentito le residue recriminazioni di Sky, che, citando una missiva comunitaria, sosteneva come proprio da Bruxelles fosse arrivato il suggerimento di ridurre l'aliquota a tutti i servizi TV. Parole estrapolate dal loro contesto per la Assimacopoulou. Lo scontro tra Sky e governo si arricchisce di nuovi dettagli in cronaca. Nei giorni successivi c'è una lettera, per esempio, scritta da Murdoch in persona a Berlusconi, lettera di cui nessuno conosce fedelmente i contenuti, però insomma possiamo prevedere che la lettera sarà stata poco tenera nei confronti del Premier. Contemporaneamente però Sky sospende gli spot antigoverno e nei suoi TG usa toni più pacati per raccontare la vicenda. E intanto parole distensive arrivano anche dai vertici di Mediaset. Più tardi toccheremo altri temi caldi che riguardano sempre la politica, come le scelte in campo economico e poi la complicatissima vicenda di De Magistris. Ora però torniamo a parlare delle strategie all'interno del PD. Qualcuno pensa addirittura di rispolverare alleanze con la Lega per aprire una breccia di consensi al nord. La Lega, in fondo, una decina di anni fa, era stata descritta come costola della sinistra. Sentiamo il servizio di lunedì curato da Elisabetta Fiorito. Conquistare il nord, ma come? Il Partito Democratico si pone la questione da tempo, dall'alleanza con l'imprenditore Massimo Calearo. Adesso Walter Veltroni compie un altro passo. Il segretario approva la proposta del sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, che chiede un coordinamento del nord e patti locali con la Lega. Per Veltroni è una struttura che può avere un peso e un'importanza, è una delle tante forme di democrazia che noi abbiamo a differenza di altri partiti, sostiene Veltroni. Sulla collaborazione con la Lega possibilista il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Si può fare, ragionarci, ovviamente è una decisione che poi spetta a Umberto Bossi, ma se c'è anche un ragionamento di livello nazionale, perché è difficile spiegare all'elettorato nostro del PD a livello locale che si porta avanti un'intesa quando a livello nazionale siamo distanti. Ma da parte del coordinamento nazionale della Lega, il ministro degli interni Roberto Maroni boccia la proposta. Il Partito Democratico del Nord non esiste, dice Maroni, la Lega non ha bisogno di alleanze e aumenta i consensi ogni giorno. E dunque, in un PD che deve risolvere diversi nodi, c'è la questione morale di cui abbiamo già parlato, la collocazione in Europa, dentro, fuori o vicino semplicemente al Partito Socialista, mi sembra di capire che prevalgono i no comunque all'ipotesi del Partito del Nord e di queste aperture alla Lega, come vorrebbero Chiamparino e Cacciari. L'ottavo giorno. Domenica. Giornata nera, anzi nerissima, in gran parte dell'Italia a causa del maltempo. Da nord a sud infatti si registrano bufere di neve, grandinate, raffiche di vento, mareggiate e purtroppo anche delle vittime. Questa è la cronaca che arriva da Genova ed è firmata da Andrea Ferro, andata in onda nel GR delle 7 di lunedì. Ancora una notte di pioggia, neve, temporali, vento e mare agitato, il nord-ovest resta in balia del maltempo che non accenna ad allentare la sua morsa. A Dovada, al confine tra Liguria e Piemonte, riprendono stamane le ricerche del ventenne inghiottito sabato notte dalle acque dell'Ostura. Il corpo senza vita dell'amico che si trovava con lui è stato recuperato ieri pomeriggio dalle squadre di soccorso. Reduci dalla serata trascorsa con gli amici in auto, i due ragazzi stavano percorrendo un guado sul torrente quando un'onda di piena li ha travolti. A Genova in Liguria trombe d'aria e centinaia di interventi dei vigili del fuoco, danni lungo le riviere per la violenta mareggiata, l'ennesima di questo autunno. Da ieri notte una frana di grosse dimensioni blocca l'Aurelia all'altezza di Zoagli. Nel capoluogo la protezione civile ha emesso un avviso d'allerta per temporali e venti con raffiche fino a 130 km orari. Una delle immagini simbolo, forse anzi l'immagine simbolo di questi giorni di maltempo è quella del surf in piazza San Marco. A Venezia infatti lunedì l'acqua alta arriva a quota 156 centimetri, più di un metro e mezzo, si tratta di un record negli ultimi 22 anni. Ieri intanto è arrivata sull'Italia una nuova perturbazione di origine atlantica che porterà temporali, in particolare sulle regioni centro-meridionali, proprio tra oggi e domani. Sono previste anche precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. Radio 24 naturalmente segue passo passo l'evolversi della situazione. Martedì alle 7, nel GR delle 7, va in onda un'intervista di Paolo Panceri a Giovanni Menduni, direttore dell'ufficio Previsioni e Prevenzione Rischi Naturali del Dipartimento della Protezione Civile. Continua a piovere sulle zone dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino tosco-emiliano. La quota neve è superiore a 1000 metri. Questo fatto, che appare tecnico, in effetti spiega le piene che noi registriamo sui fiumi appenninici emiliani, perché c'è stato uno scioglimento nivale rilevante che ha determinato queste piene e questi fiumi danno effettivamente qualche preoccupazione. L'Emilia Romagna sta sperimentando criticità non indifferenti sul Reno e sul Panaro, proprio per via di questa ondata di piena derivata sia dalla precipitazione che dallo scioglimento delle nevi di questi giorni. Lunedì. E adesso apriamo un'abbondante pagina di esteri che legherà con un filo rosso gli Stati Uniti e l'Asia, in particolare l'India. Cominciamo da Chicago, dove lunedì il presidente eletto americano Barack Obama, che fa in pratica una conferenza al giorno e praticamente tutti i giorni parla di economia, questa volta, per una volta, parla invece di sicurezza, sia sul fronte interno e soprattutto sul fronte internazionale. Il nome di spicco in questa conferenza stampa, nella quale è presente la sua squadra e il suo team, è naturalmente quello di Hillary Clinton. Sentiamo Alessio Maurizi e poi il commento di Sergio Romano, intervenuto nel GR Extra Large di martedì. The time has come for a new beginning. È tempo per un nuovo inizio. Vogliamo affrontare le sfide del XXI secolo con speranza e non più con paura. Ma non tollereremo che innocenti vengano uccisi da estremisti. Barack Obama, alla presentazione del suo staff per la sicurezza nazionale, mantiene l'accento sul cambiamento, ma forse per la prima volta parla da presidente degli Stati Uniti, potenza mondiale egemone, e sull'onda degli attentati di Mumbai promette la stessa guerra al terrore condotta dal suo predecessore. Non possiamo tollerare che estremisti uccidano persone innocenti, dice. Siamo vicini all'India. C'è Hillary Clinton, sarà segretario di Stato. Dimenticati gli scontri delle primarie, Obama scommette su di lei, una donna conosciuta in tutte le capitali, dice, per rilanciare un'America multilaterale. Resta al suo posto Robert Gates, già ministro della difesa con Bush, chiamato a porre fine all'occupazione in Iraq. E c'è anche l'italo-americana Janet Napolitano, al Ministero della Sicurezza Nazionale. Ritiro dall'Iraq, stop al nucleare iraniano, rilancio del dialogo con Mosca e soprattutto la stabilità del Pakistan saranno le priorità. Nel segno delle Nazioni Unite, una sede imperfetta ma indispensabile, promette Obama. Io ho l'impressione che per oggi come oggi Obama abbia un obiettivo, deve in qualche modo riunificare il Partito Democratico. Non dimentichiamo che queste elezioni hanno spaccato il Partito Democratico più di quanto non abbiano spaccato in fondo il Partito Repubblicano. Il Partito Repubblicano era tutto dietro McCain alla fine, ma il Partito Democratico invece in un certo momento era diviso fra lui e la Clinton. Ebbene, adesso Obama ritiene che l'unità del Partito Democratico, soprattutto per un candidato anomalo, un candidato in cui il colore della pelle continua a rappresentare comunque una eccezione, una splendida eccezione, ma un'eccezione che molti americani considerano ancora non splendida, e beh, per tutte queste ragioni Obama ha bisogno di avere un partito unito dietro di sé e lo fa in questo modo, ricorrendo a uomini del clan Clinton, che è quello ovviamente più potente all'interno del partito. Quindi Obama ha scelto Hillary Clinton per riunificare i democratici o per qualche altra ragione? Credo che l'abbia scelta per unificare i democratici, l'abbia scelta perché abbia ritenuto che i Clinton fuori dalla porta di casa erano più pericolosi che dentro la Casa Bianca. Forse vi ricorderete che a un certo punto ci eravamo tutti chiesti ma che cosa succede se si porta i Clinton dentro la Casa Bianca? Rischia di avere un ingombrante ombra di banco seduta continuamente al tavolo della sala da pranzo, che sarebbe il vecchio presidente Clinton. Adesso devo dire che ha fatto la scelta di averli dentro la Casa Bianca e può essere anche una scelta saggia. Nel servizio di Alessio Maurizi, l'avete appena riascoltato, Obama lunedì fa riferimento all'India, che in questi giorni è per forza di cose il paese al quale tutti guardano ed è anche il paese che ha alzato di più la guardia contro il terrorismo. Sentiamo gli sviluppi proprio di lunedì da Nuova Delhi con Marco Masciaga e poi una controcopertina dedicata all'India e firmata da Laura Bettini. Continuano a emergere nuovi dettagli sull'attacco di Mumbai della scorsa settimana e su come le autorità indiane non abbiano dato importanza a una serie di indizi che avrebbero potuto permettere di organizzare una risposta più adeguata all'operazione. Secondo quanto riporta questa mattina il quotidiano Hindustan Times, la Research and Analysis Wing, ovvero i servizi segreti indiani, avrebbero intercettato alcune comunicazioni telefoniche satellitari che avrebbero dovuto mettere in allarme le autorità. Non solo, lo scorso ottobre anche i servizi americani avrebbero informato il governo indiano del pericolo di un attacco imminente. Tra gli elementi contenuti nelle conversazioni ci sarebbero stati il luogo dell'attacco, Mumbai, gli obiettivi degli hotel e la direzione da cui i terroristi avrebbero raggiunto la città, il mare. Alcune delle intercettazioni sarebbero avvenute addirittura pochi giorni prima dell'assalto, mentre il comando si trovava al largo della capitale finanziaria dell'India, a poche decine di chilometri dalla costa. Sul fronte politico, ieri è stato il giorno del primo atto ufficiale tra India e Pakistan, ovvero la convocazione dell'ambasciatore di Islamabad. Secondo indiscrezioni, il Ministero degli Esteri indiano avrebbe chiesto la consegna di almeno due ricercati di alto profilo, che sospetta vivere indisturbati oltre confine. La prima rivendicazione degli attacchi multipli di Mumbai arrivò a scontri ancora in corso. Siamo i Mujahideen del Deccan, diceva, il governo dell'India smetta di perpetrare l'ingiustizia contro i musulmani e restituisca loro le terre che gli ha sottratto. Ora quella rivendicazione sembra sconfessata, le indagini guardano al Pakistan e ad Al-Qaeda, ma la questione musulmana resta. È mai possibile che 10 terroristi, per di più stranieri, possano aver portato a termine un attacco tanto vasto e senza l'aiuto di elementi locali? Se ne parla molto in questi giorni, ci dice Asghar Ali Engineer, direttore del Centro di Studi Islamici di Mumbai, uomo di pace e tolleranza, ma non per questo meno attento alle disuguaglianze verso i musulmani indiani. Paragonati al resto della popolazione, sono meno preparati, studiano meno, sono più poveri. Ma negli attacchi a Mumbai la religione non c'entra, dice Engineer. Questa è una questione politica. L'animosità tra India e Pakistan non è tra gli indiani e i pakistani. Quelli che stanno nell'esercito pakistano o nei servizi segreti pakistani magari sono dei fanatici religiosi, ma agiscono per motivazioni politiche. Pensano probabilmente alle elezioni indiane dell'anno prossimo, ma a cosa mirano? Sono speculazioni. Ma se ne potrebbe dedurre che si punta a far vincere il partito di destra induista BJP. E se vince il BJP, le probabilità che si verifichi uno scontro tra India e Pakistan aumentano. Come nel 2001, quando l'attacco al Parlamento indiano quasi scatenò la guerra tra i due eserciti. Come ogni volta che Nuova Delhi e Islamabad tentano di aprire un dialogo. In India la tensione in realtà rimane alta per tutta la settimana, possiamo dire che anche in queste ore la tensione è altissima. Le allarmi di nuovi attentati infatti rimbalzano quasi ogni giorno. Sentiamo allora la situazione aggiornata giovedì in questo servizio di Cristina Balotelli. Stato di massima allerta nei maggiori aeroporti indiani dopo che le autorità hanno ricevuto informazioni relative a possibili attacchi terroristici aerei. L'allerta interessa in particolare tre scali, Nuova Delhi, Bangalore e Chennai. A nessuna automobile è permesso avvicinarsi ai terminal. Tutti i bagagli vengono ispezionati e i viaggiatori perquisiti. All'esterno e all'interno poliziotti armati, tiratori scelti, cani antiesplosivo, jeep con mitragliatori. Secondo alcune televisioni indiane che citano fonti di intelligence, uno degli avvertimenti ricevuti consisterebbe in un'email dei Mujahideen del Deccan, lo stesso gruppo che ha rivendicato gli attentati, in cui si parla di possibili attacchi condotti da aerei dirottati in pieno stile 11 settembre 2001. Oggi Condoleezza Rice si è recata a Islamabad per incontrare le autorità pakistane che hanno negato l'estradizione dei ricercati dopo gli attentati. Il presidente Zardari ha promesso al segretario di Stato americano di cooperare con l'India nelle indagini. Intanto il capo del gruppo terrorista Lashkar-e-Taiba, Hafiz Sayed, che Islamabad si rifiuta di estradare, ha negato in un'intervista ogni responsabilità. Nei giorni scorsi, e non è sicuramente un caso, nelle zone calde di India e Pakistan è in visita Condoleezza Rice in una delle sue ultime iniziative come segretario di Stato. Condoleezza Rice, che tra l'altro in questi giorni abbiamo anche visto a Londra suonare il piano per la regina Elisabetta a Buckingham Palace. Torniamo però alle sue vicende molto più importanti, molto più significative in India e Pakistan. Lo ha accennato anche nel servizio Cristina Ballotelli, ma sentiamo qualche dettaglio nel suo trasferimento proprio dall'India al Pakistan mercoledì con Marco Masciaga. Il segretario di Stato americano Condoleezza Rice è appena atterrato a Islamabad, dove incontrerà i rappresentanti del governo pakistano per chiedere di adottare la linea dura nei confronti del terrorismo. La minaccia globale dell'estremismo, detto da Rice in volo verso la capitale pakistana, va affrontata da tutti gli stati. La nuova tappa del viaggio della Rice nel subcontinente giunge dopo che il numero uno del Dipartimento di Stato ieri aveva chiesto all'India di astenersi da azioni nei confronti del paese confinante che potrebbero avere conseguenze indesiderate. L'opera diplomatica della Rice è rafforzata in queste stesse ore da quella dell'ammiraglio Mike Mullen, il militare più alto in grado delle forze armate americane, che ieri era a Islamabad e nelle prossime ore è atteso qui a Delhi. Gli Stati Uniti sono attivamente coinvolti nei rapporti tra India e Pakistan, sia per evitare il ripetersi dell'escalation che tra il 2001 e il 2002 portò le due potenze atomiche a un passo dalla guerra, sia per non obbligare l'esercito e l'aviazione pakistana a dirottare risorse verso il confine con l'India, da quello con l'Afghanistan, dove Islamabad opera di concerto con le forze americane. L'ottavo giorno, martedì. Prima della pausa abbiamo spaziato tra Stati Uniti e India seguendo un po' il filo comune della minaccia del terrorismo. Martedì però questa minaccia si materializza anche in Italia. Sentiamo Raffaella Calandra. La caserma Perucchetti di Milano, gli uffici per immigrati della Questura, il garage dell'Estelunga o di un bar di Seregno. Era qui che due presunti terroristi volevano realizzare la loro jihad con qualcosa di grande che rimanga nella storia, si dicevano nelle conversazioni, perché non serve andare in Afghanistan, aggiungevano, per sentirsi di Al-Qaeda. Per il loro piano si stavano già attrezzando con manuali e sopralluoghi, ma sono stati fermati dai mandati di cattura. In carcere sono così finiti due marocchini, Ilami Rashid e Abdelkader Ghafir, entrambi da anni perfettamente inseriti, il primo saldatore assunto da una ditta brianzola, il secondo operaio edile, entrambi frequentatori del Centro Culturale Pace di Macherio, entrambi col sogno di immolarsi per Bin Laden. E non potendolo fare in Iraq, Afghanistan o Algeria, pensano all'Italia. E se li terrorizzassimo, discutono, dopo aver studiato con manuali reperiti su internet come preparare esplosivi o aver calcolato l'impatto delle autobombe, questi terroristi locali, formati da soli, secondo la definizione del capo della Digos, Bruno Megale, erano passati ai sopralluoghi. Un passo in avanti, registrato nelle ultime settimane, che ha fatto poi scattare gli arresti. I due arrestati giovedì davanti alla GIP Silvana Petromer e al PM Nicola Piacente scelgono di non rispondere alle domande, ma si dichiarano innocenti e soprattutto dicono di non essere terroristi. La vicenda dell'arresto di Milano intanto si sposta su un piano prettamente politico e riaccende antiche divisioni tra destra e sinistra, poi in mezzo arriva anche la Chiesa a dire la sua. Sullo sfondo c'è il modo diverso da parte delle forze politiche di porsi davanti all'immigrazione islamica. Sentiamo questo servizio di Roberta Pellegatta. L'arresto dei due musulmani legati al centro culturale di Macherio in Brianza, accusati di progettare attentati a Milano, ha riacceso la battaglia della Lega contro le moschee. Roberto Cota, presidente del gruppo del Carroccio alla Camera, propone una moratoria sulla costruzione di nuove moschee in Italia fino all'arrivo di una legge ad hoc, annunciando la presentazione di una mozione parlamentare in tal senso. Una soluzione non peregrina per il ministro dell'Interno Maroni, secondo il quale un no secco alla proposta solo perché presentata dalla Lega sarebbe il frutto di un pregiudizio ideologico. Purtroppo, ha sottolineato Roberto Maroni riferendosi alle moschee d'Italia, non è mai agevole distinguere tra luoghi di culto e luoghi in cui si svolgono altre attività, come il reclutamento e la raccolta fondi per finanziare il terrorismo. Per l'opposizione, quella del Carroccio è una proposta rozza e sommaria. L'unica apertura arriva dalla deputata cattolica del PD, Paola Binetti, che accetta l'idea della moratoria solo se intesa come momento di riflessione per decidere il da farsi. Un'idea, quella di Cota, che per alcuni cozza però con la Costituzione, che all'articolo 19 garantisce in Italia il diritto alla libertà di culto per tutte le religioni. Come detto nel dibattito moschee sì, moschee no, giovedì entra ad alta voce in gioco la Chiesa. Sentiamo allora la posizione del Vaticano e poi alcune voci invece di leader politici che abbiamo già riascoltato in realtà nel servizio della Pellegatta. Questo servizio invece che viene in onda ora è di Paolo Panceri. C'è una sostanziale differenza di vedute tra il Vaticano e la Lega a proposito della costruzione di nuove moschee, che si evidenzia proprio all'indomani dell'arresto dei due islamici che progettavano attentati a Milano. Favorevole a nuove moschee la Santa Sede purché, spiega Monsignor Gianfranco Ravasi, responsabile del Pontificio Consiglio della Cultura, ci sia un controllo dello Stato e non si trasformino in luoghi per altri fini. Contraria invece la Lega, che ribadisce la moratoria contro nuove moschee. Si parte dal leader del Carroccio, Umberto Bossi, secondo il quale occorre non costruirne altre. Roberto Cota, capogruppo del Carroccio alla Camera, chiede una legge che regolamenti la costruzione delle moschee e anche l'esercizio delle varie attività che oggi ci sono all'interno di moschee, centri culturali. Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, non prende posizione nel merito, ma sottolinea che bisogna intervenire contro i centri culturali che diventano luoghi di reclutamento e di finanziamento per attività terroristiche. Norma della legge Mancino che consente al ministro dell'Interno di intervenire e sciogliere associazioni, enti che fanno propaganda razzista. Usciamo per un attimo dalle beghe italiane, perché mentre da noi la Lega chiede una moratoria sulla costruzione delle nuove moschee, al Polo Nord si prende addirittura una strada completamente opposta. Sentite Adib Fateh Ali. Sarà costruita in Norvegia, avrà una superficie di 1000 metri quadri e costerà quasi 3 milioni di euro. Si tratta della prima moschea che sorgerà nel Polo Nord. È quanto scrive stamane il quotidiano saudita Al-Watan, che sottolinea il dono di 20 milioni di corone norvegesi offerti da un benefattore saudita anonimo. Il giornale arabo fa sapere che la municipalità danese hanno già messo a disposizione il terreno e che sarà il più grande luogo di culto mai realizzato entro i confini geografici del Polo Nord della Norvegia e rispetterà i vincoli dell'ambiente. In quest'ultima parte dell'ottavo giorno siamo partiti dagli arresti di due presunti terroristi affiliati ad Al-Qaeda a Milano. Ma in questi giorni rispunta un'altra vicenda, per molti aspetti ancora oggi oscura, legata alla lotta al terrorismo. Sentiamo il servizio di mercoledì firmato da Raffaella Calandra. La procura attacca gli ultimi premier sul segreto di Stato, il giudice si rivolge alla Consulta e nel frattempo sospende tutto. Il processo Abu Omar riprenderà solo dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione tra poteri sul segreto di Stato, a causa dell'estrema difficoltà, scrive il giudice Oscar Maggi, di tracciare un limite nell'ammissibilità delle domande. Dopo aver rinviato al 18 marzo il procedimento contro 007 accusati del sequestro dell'ex imam, il giudice annuncia il sesto conflitto di attribuzione tra poteri sul segreto di Stato, dopo quelli di procura e presidenza del Consiglio. Prima in aula sia Silvio Berlusconi che Romano Prodi erano stati chiamati in causa dal procuratore Armando Spataro per aver ostacolato la giustizia, utilizzando il segreto, ha detto, citando il Parlamento europeo, per impedire l'accertamento della verità. Nell'ultima lettera al Tribunale, Palazzo Chigi ha confermato l'esistenza del segreto sui rapporti tra intelligence italiana e straniera, ma non sul caso Abu Omar. Ma per il giudice c'è stata una illogica dilatazione, scrive, della sfera di non conoscibilità dei fatti. Mercoledì è la giornata internazionale dei diritti dei disabili. Il presidente Napolitano vi partecipa con un messaggio eloquente. Leggo testualmente le sue parole. È importante che, pur in una fase di innegabile difficoltà per la finanza pubblica, le esigenze di sostegno e di supporto delle persone con disabilità e dei loro familiari non siano sottovalutati. Radio 24 intanto ricorda la giornata dei disabili con questo focus di Cristina Carpinelli. Sei ancora qua? Oltre l'80% dei disabili al mondo vive nei paesi poveri. Si tratta di 400 milioni di persone. Nell'area dell'Africa subsahariana, malnutrizione e gravi mancanze di cure mediche generano handicap fino al 10-15% nei bambini alla nascita. Poi c'è la guerra che fa il resto. In Ruanda, Mozambico, Congo, un quarto dei giovani al di sotto dei 15 anni vive con una mutilazione. In America Latina i bambini nati con handicap nella maggior parte dei casi non viene neppure registrata all'anagrafe. Non ci sono per nessuno vivono ai margini dei margini, già miseri, in cui sta la loro famiglia. Nei paesi dell'est europeo la regola è il ricovero in grandi istituti. In Russia su 340.000 bambini in collegi statali 232.000 sono disabili. Ma chi nasce con un handicap, però, e questo dato fa davvero impressione, finisce nel 10% dei casi in un istituto anche in Svezia, cioè la stessa percentuale che c'è in Romania. cioè a dire che non è la ricchezza economica di un paese che fa la differenza, ma il grado di partecipazione sociale. In Italia solo il 2% dei bambini handicappati finisce in un istituto. Sappiamo che finire in un grosso istituto significa togliere a un bambino l'amore della famiglia e la possibilità di migliorare. Martedì, quindi alla vigilia della giornata internazionale dei diritti dei disabili, si registra una presa di posizione netta e che dà poi il via a molte polemiche del Vaticano. La Santa Sede infatti conferma che non firmerà la Convenzione ONU sui diritti dei disabili, in vigore già da maggio scorso. Il rifiuto della Chiesa nasce dalla mancanza nel testo di una esplicita condanna dell'aborto. Ma la Chiesa finisce al centro del dibattito già lunedì, questa volta per le sue scelte nei confronti dell'omosessualità. Sentiamo allora Cristina Balotelli e poi una riflessione di Adib Fateh Ali sulla condizione degli omosessuali nel mondo arabo. Il Vaticano boccia con decisione il progetto di una depenalizzazione universale dell'omosessualità ed è subito scontro con le Nazioni Unite. Gli stati che non riconoscono l'unione tra persone dello stesso sesso come matrimonio, dice il nunzio della Santa Sede alle Nazioni Unite, Monsignor Celestino Migliore, verranno messi alla gogna e fatti oggetto di pressioni. Affermazioni che scatenano una serie di reazioni polemiche e una nuova presa di posizione della Santa Sede, che però non è una retromarcia. Nessuno vuole difendere la pena di morte per gli omosessuali, spiega padre Federico Lombardi, ma per l'associazione Arcigay si tratta di gravi affermazioni e di un vero e proprio atto di condanna contro i milioni di gay e lesbiche che hanno la sfortuna di abitare in paesi sanguinari dove sono previste sanzioni, torture, pene e condanne a morte contro gli omosessuali. Per milioni di persone nel Medio Oriente, l'ascesa del fondamentalismo islamico ha significato la caduta in un'era di oscurantismo religioso che non ha risparmiato certo gli omosessuali. Esclusi quattro paesi dove è prevista la pena di morte, scegliere la propria inclinazione sessuale è illegale in ben 14 paesi arabi. Scomparsa ogni forma sociale di difesa della categoria, le fustigazioni per cattiva condotta sessuale sono all'ordine del giorno. Nei paesi cosiddetti tolleranti non è che le cose vadano meglio. In Siria e Libano le attive comunità gay sono considerate portatrici di malattia che può essere curata. In Marocco e Tunisia la comunità è colpita dalla doppia H, Hokuma, governo, e Haram, peccato. Non ingannino Egitto e l'Iraq, gli unici dove non ci sono leggi contro l'omosessualità. Al Cairo le retate della polizia di Mubarak non conoscono soste, mentre a Baghdad, con le milizie sciite e qaediste in giro, la morte per omosessualità è la regola. La Chiesa e il Vaticano in realtà finiscono sulle prime pagine per tanti motivi in questa settimana. Ieri, per esempio, ci sono state le parole di Bruno Stenco, direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI per l'Educazione, che ha detto che i nuovi tagli agli istituti scolastici paritari previsti dalla finanziaria del governo Berlusconi aprono una crisi. L'ottavo giorno. Giovedì. Ormai è diventato un appuntamento puntuale, implacabile, con l'ottavo giorno, il ragguaglio di quello che succede nella settimana economica. Una delle notizie più importanti di questi ultimi giorni arriva giovedì dalla Banca Centrale Europea. Sentiamo Sergio Nava. Indeed, 75 basis point is the biggest decrease. Il taglio è stato robusto, al punto che lo stesso presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, parla della maggiore sforbiciata di tassi di sempre, 3/4 di punto in meno per portare il costo del denaro nell'eurozona al 2,5%, il più basso dal marzo 2006. Una scelta dettata, secondo lo stesso Trichet, dall'eccezionale livello di incertezza economica presente nell'eurozona, che getta pesanti ombre anche sulla ripresa nel 2009. Per la BCE il prossimo anno si rischia un'ulteriore contrazione del PIL pari a 0,5 punto. Notizia che fa il paio con l'annuncio odierno di Eurostat, che ha confermato la recessione in Eurolandia con un PIL in calo di 2 decimali anche nel terzo trimestre 2008 e l'Italia in discesa di 0,5 punto. Le buone notizie, se così si può dire, vengono da un'inflazione che punta verso il basso. Per Trichet non ci sono attualmente rischi di deflazione, vale a dire di una spirale a ribasso dei prezzi determinata dalla scarsa domanda. Il presidente della BCE ha preferito tenere la bocca chiusa in relazione a possibili nuovi tagli dei tassi nella riunione di gennaio, accenna però che ci saranno se necessario. Poco prima della riduzione della BCE era toccato alla Banca d'Inghilterra portare i propri tassi di interesse al 2% con un calo di 1 punto, è il livello più basso dal 1951. Anche quella di ieri, soprattutto quella di ieri, è una giornata densa e per molti aspetti cupa sul versante economico. Cominciamo a raccontarla dagli Stati Uniti, da dove giungono notizie davvero scoraggianti sul fronte dell'occupazione. 533.000 posti di lavoro persi nel mese di novembre in America, è un dato senza precedenti, il peggiore in 30 anni, nessuno se lo aspettava, gli analisti, anche i più pessimisti, avevano stimato al massimo una perdita di 380.000 posti di lavoro e invece siamo arrivati a superare il 500.000. Questo significa che in 6 mesi l'America ha perso 1.500.000 di posti di lavoro, 1.700.000 dall'inizio dell'anno, e significa anche che se andiamo avanti di questo passo si arriverà presto a superare la soglia dei 2 milioni. Il tasso di disoccupazione è salito al 6,7%, il livello più alto in 15 anni, e dunque in questa situazione occorrono misure. Barack Obama ha promesso che già dal primo giorno del suo insediamento firmerà un pacchetto di stimoli da 500 miliardi di dollari. L'obiettivo, ha detto, quello primario è non solo di occuparsi del settore finanziario, ma di restituire fiducia e energia all'economia. Contemporaneamente le borse chiudono un'altra settimana di grossissima difficoltà. Sentiamo il ragguaglio definitivo di Anna Marino ieri sera alle 19. Franano in questo venerdì nero anche le principali borse europee, proprio sulla scia di Wall Street, dove il Dow Jones in questo momento perde l'1,66%, mentre il Nasdaq perde l'1,05%, anche sulla scia del dato americano, come abbiamo sentito, sulla disoccupazione di novembre. Andati in fumo nel vecchio continente 180 miliardi di euro, si sono aggiunti alla brusca frenata degli ordinativi nell'industria manufatturiera tedesca a ottobre, calati del 6,1%, e alla discesa del prezzo del grezzo, sceso sotto i $42 al barile in America, mentre il Brent a Londra è scivolato addirittura sotto i $40 in minimo da gennaio 2005. Francoforte ha chiuso a meno 4%, Parigi la peggiore in Europa a meno 5,48%, Londra a meno 2,74%, anche Piazza Affari ha terminato la seduta in deciso calo, Mibtel ha segnato un pesante meno 4,74% e l'S&P MIB un meno 4,99%. A completare questo quadro rassicurante, e ci possiamo aggiungere anche l'allarme lanciato ad inizio settimana dalla CISL, che parla addirittura di 900.000 posti a rischio nei prossimi anni, arriva sempre ieri il Censis, che presenta il 42esimo rapporto sulla situazione sociale dell'Italia. Sentiamo il servizio da Roma di Francesca Malaguti. Le famiglie italiane si sentono insicure. La metà avverte il pericolo di non riuscire a onorare i propri debiti. Tra queste, quasi 3 milioni hanno investito in prodotti finanziari rischiosi. 2 milioni stanno pagando il mutuo per la propria casa, 3 milioni si sono indebitate per comprare beni di consumo, quasi 4 milioni non hanno messo da parte nessun risparmio. Ma il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, crede che dalla crisi possa partire una metamorfosi positiva per la nostra economia e sottolinea che non sono poi così tante le famiglie davvero in difficoltà. Sui mutui della casa, per esempio, sono meno del 10%, non esageriamo, c'è anche un senso di adattamento, di strategia. De Rita ammette però che la crisi potrebbe aggravarsi dopo Natale, quando i consumi avranno una naturale frenata. Il direttore del Censis, Giuseppe Roma, bandisce anche gli allarmismi del mondo industriale, ricordando che a settembre la liquidità dell'impresa era di 252 miliardi. Siamo anche un paese dove si investe poco, questo è un buon carburante per fare quello che noi diciamo, una metamorfosi del sistema d'impresa. Insomma, finora abbiamo dato cattive notizie sul versante economico, cerchiamo di darne una perlomeno un po' più incoraggiante, e riguarda all'Italia e il passaggio fatidico a CAI, ormai davvero ci siamo, manca pochissimo. Mercoledì si pronuncia anche l'antitrust, come ci racconta questo servizio di Alessio Maurizi. Adesso manca solo l'ultimo parere dell'Europa, poi il passaggio dell'Alitalia sotto il controllo della compagnia aerea italiana non avrà più ostacoli. Ieri un via libera è arrivato dall'antitrust italiano. Nel mirino dell'authority la fusione tra Alitalia e Air One, operazione prevista dal piano CAI e che prefigurava una diminuzione della concorrenza sul mercato domestico, visto che le due compagnie separatamente detenevano la maggioranza delle rotte. Ebbene, l'antitrust ha fissato al 3 dicembre 2011 la cessazione del monopolio. In questo lasso di tempo la CAI dovrà garantire alcune condizioni a tutela della concorrenza. Prima di tutto offrire un'ampia scelta rivista di tariffe, con sconti su tutte le rotte e su ogni volo, almeno il 10% dei posti in tariffa economy, poi un numero verde per gestire i disservizi e infine garantire un programma di fedeltà per 3 anni su rotte nazionali ed estere. L'ultimo via libera, ha confermato il commissario europeo Tajani, arriverà ora dal monitoraggio di Bruxelles sulla cessione degli asset a prezzo di mercato, poi sarà a decollo. Venerdì. L'ultimo giorno lo vogliamo dedicare ad una delle più spinose, poco chiare, direi persino avvelenate vicende giudiziarie degli ultimi anni, quella riguardo al caso De Magistris. Giovedì interviene persino Napolitano, sentiamo Raffaella Calandra. Lo scontro ora arriva all'apice e sul caso De Magistris interviene direttamente il capo dello Stato, mentre tra le procure di Salerno e Catanzaro la battaglia è a colpi di sequestri e controsequestri. Il Quirinale chiede ai magistrati di Salerno gli atti dell'inchiesta che ha portato alle perquisizioni nella procura generale di Catanzaro dei fascicoli Wainotto e Poseidon, fascicoli in origine affidati al PM Luigi De Magistris, poi trasferito, le cui denunce sui tentativi di insabbiamento hanno fatto partire queste controindagini. È una vicenda senza precedenti, con rilevanti e gravi implicazioni istituzionali, scrive nella lettera alla Procura di Salerno, a nome di Napolitano, il segretario generale Donato Marra. Contemporaneamente Catanzaro passava al contrattacco, prima con l'iscrizione di 7 colleghi salernitani, compreso il procuratore capo Apicella, nel registro degli indagati, poi bloccando il sequestro dei documenti presi durante le perquisizioni. L'intervento del Quirinale arriva dopo che anche il nome del vicepresidente del CSM, Nicola Mancino, è finito nell'indagine per una telefonata dal suo studio al personaggio chiave di Why Not, l'imprenditore Antonio Saladino. L'aveva chiamato un mio ex collaboratore, chiarisce ora Mancino, dicendosi pronto a togliere l'incomodo se sorgesse qualche ombra di sospetto. La sensazione è che la questione si trascinerà a lungo e potrebbe anche riservare grossi colpi di scena. Noi per ora ci limitiamo a raccontarvi quello che è successo fino a ieri, ancora un servizio di Raffaella Calandra. Apre un'istruttoria con l'audizione dei procuratori generali di Salerno e Catanzaro. Il CSM convoca d'urgenza tutti i vertici degli uffici giudiziari delle due città, senza escludere una propria trasferta, e il guardasigilli acquisisce i primi atti prima di decidere se inviare i suoi 007 o disporre direttamente un'azione disciplinare. Dopo l'intervento del Colle a fermare lo scontro tra toghe, ora si apre una nuova fase senza tensioni fra istituzioni, auspica il PG di Catanzaro Enzo Iannelli, colui che secondo il PM Luigi De Magistris agiva ai suoi danni, dichiarava a verbale. Anche Iannelli, insieme al collega salernitano Lucio Di Pietro, sarebbe stato ascoltato già in questo pomeriggio dal procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito, titolare dell'azione disciplinare, e domattina insieme ai capi delle procure saranno a Palazzo dei Marescialli per le audizioni urgenti stabilite dal CSM d'intesa con il capo dello Stato, precisa il vicepresidente Nicola Mancino. La prima commissione ha intenzione di affrontare di petto i contorni di quest'aspro confronto, il cui sviluppo finisce per ricadere, scrive in una nota, sull'intera magistratura, che non ha certo bisogno di danni d'immagine. Si ipotizza però anche una visita diretta agli uffici calabresi e campani. Staremo a vedere. Dobbiamo ancora darvi l'ottava notizia della settimana, cerchiamo un po' di tirarci su il morale, insomma finora abbiamo dato tantissime brutte notizie, allora consoliamoci con le magie dello sport, perché martedì il calcio incorona il suo protagonista più forte del 2008. Dario Ricci. It's Cristiano Ronaldo, he has got the goal, he's done it. Certo, per festeggiare non ha scelto una delle sue solide prodezze, ma un'espulsione per un ingenuo fallo di mano nel derby di Manchester vinto domenica dal suo United contro il City. Ma di sicuro Cristiano Ronaldo non rinuncerà a stappare una bottiglia di champagne. È lui il 53esimo pallone d'oro, il successore del milanista Kakà, il terzo portoghese dopo la pantera nera Eusebio nel 65 e Luis Figo nel 2000. A 23 anni, grazie a Premier League e Champions vinte da capocannoniere con il Manchester United, Cristiano diventa ora il vero Ronaldo, non più l'ombra del suo declinante alter ego brasiliano. Funambolo e goleador, sogno del Real Madrid e oggetto del desiderio di veline e playmate, Ronaldo è la sintesi tra calcio, fashion e glamour. E allora nessuna sorpresa se il pallone d'oro finisce oggi nella sua bacheca, ennesimo trofeo da spolverare accanto a qualche coppa e decine di cuori infranti.